21.03 Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza anche per oggi 29 novembre del 2017 inizia prove tecniche di trasmissione in una versione diciamo speciale perché all'interno intorno alle ore 22 ospiteremo qui in radio Tiziano Lo Conte, membro e fondatore dei Roselux, gruppo nato anche dalla fine dei Grunge, un gruppo con la quale Tiziano Lo Conte iniziò la sua lunga carriera. E quindi alle ore 22 inizieremo questa intervista in previsione dell'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa che vedrà impegnati Roselux, Franti e Umbra a Forte Prenestino 9 dicembre. Salutiamo Raffaele da Napoli, Antonella dalla Sicilia, Like and Wake qui da Roma, il buon Valerio, colonna di Radio Onda Rossa, che al di là del vetro ci ha, come dire, sollecitato al saluto, quindi un saluto spontaneo. Lo ringraziamo ovviamente. E Alessandra qui da Roma. L'intervista sarà fatta dal sottoscritto e da 25 O'Clock, che poi credo continuerà per qualche minuto dopo la fine dell'intervista e andrà avanti fino appunto alla conclusione di questa giornata. 0649 17 50, il contatto telefonico, il sito internet per usufruire anche dello streaming è www.ondarossa.info. ondarossa@ondarossa.info è il riferimento email e questo spazio ha anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder. Nel sito e in questa pagina domani troverete podcast e playlist. Intanto salutiamo Valerio. Quindi noi iniziamo questa trasmissione con andarci ad ascoltare questo disco di qualche annetto fa dello svedese Letum. The Fifth State of the Grief, terzo lavoro per lui. Questo è uno dei tanti artisti che ha vissuto l'esperienza della Cold Meat Industry. Finita quell'esperienza, ha vagato per varie etichette fino ad arrivare all'autoproduzione di questo suo ultimo lavoro. Ci ascoltiamo A Heavy Burden e la conclusiva Empty. Satan entered, and he would make me stay up for days on end. I would become violent. Anytime somebody tried to show me affection, concern, I would lash out. I had no control over myself. I was just perpetrating evil. I was possessed. And that's what he loves, is to cause disharmony, hatred. That's what he loves, and he was working through me. Through me. Anche per oggi dunque abbiamo estratto due passaggi da questo ultimo lavoro, ormai del 2014, per lo svedese Letum, The Filth State of the Grief. Mattias Eriksson, che si autoproduce in queste circostanze. Ricordiamo ancora una volta un transfuga dall'esperienza Cold Meat Industry, questa etichetta che fu fondata da Roger Karmanic di Brighter Death Now. Salutiamo Giovanni Lisi in quel di Bari, Gabriel Edvi a Londra. Eccola qua, from London. Noi si va avanti, abbiamo salutato il buon Raffaele Pezzella, ormai protagonista indiscusso di questi spazi, soprattutto per la sua attività come Anesplay Sounds, questa etichetta, questo gruppo di ascolto di appassionati di musica sperimentale, ma anche valente musicista come sonologist. Abbiamo qui il suo ultimo lavoro dal nome Apocalypse, che si dipana sempre in questo alveo tra il ritualismo e la space e dark ambient. Uno degli artisti più interessanti della scena italiana. E da Apocalypse ci ascoltiamo una traccia alquanto lunga, la quarta esattamente, dal nome Global Threat. diavolo di un Raffaele Pezzella, meraviglia delle meraviglie questa traccia da questa Apocalypse, album che affronta il tema della decadenza del pianeta da tutti i punti di vista, culturale, ambientale. Un Pezzella che in questa traccia ce lo ritroviamo anche per certi aspetti più violento, tra virgolette, del solito, con questa enfasi finale che ci ha accomunati in più persone nelle rispettive cuffie a godere della potenzialità di questa splendida traccia. Un brano che si chiamava Global Threat, da, ricordo, Apocalypse, che esce per, diciamo, l'etichetta parallela alla Nesplay Sounds, quella che cura più strettamente il lato rarefatto della questione, la 8 Tower Records. Peraltro questo album verrà ristampato attraverso la prestigiosa Cold Springs Records inglese, un altro riconoscimento al talento di Pezzella. Rimaniamo in Italia e salutiamo Raffaele Pezzella e andiamo in Sardegna. Lo facciamo con una vecchia conoscenza di questi spazi, Gianluca Becuzzi, in questa occasione che si presenta come Kinetics in buona compagnia di Corrado Altieri, un album autoprodotto in 50 copie dal nome New Dystopian Order. Album che mi ha ricordato in parte certe sonorità vicine ai Panasonic. E che tratta di situazioni legate al terrorismo internazionale in molti suoi aspetti, affrontati nelle tracce, a cominciare dai titoli. E noi ci ascoltiamo quella che va a concludere il tutto, dal nome God of Someone Else. Prolifico Gianluca Bicuzzi in questa occasione come Kinetics insieme a Corrado Altieri. In questa autoproduzione New Dystopia Nord è un ottimo lavoro, una ulteriore conferma anche del talento di Corrado Altieri e di Gianluca Bicuzzi. 21 e 36, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, queste prove tecniche di trasmissione. Spazio che andrà avanti fino alle 23.30, 22.30, 23 circa, in relazione anche a questa intervista che dovrebbe iniziare intorno alle ore 22 e vedremo di quanto potrà andare avanti. Il 24 novembre del 2010, se la memoria non mi inganna, moriva Peter Christofferson, leader dei Coil, fondatore dei Coil e anche dei Throbbing Gristle. Anche lui dunque morì di novembre come John Balance. John Balance invece il 13 novembre del 2004. E quindi ci piace omaggiare in questa occasione il talento Throbbing Gristle. Abbiamo qui Mission of Dead Souls, considerato diciamo l'ultimo live ufficiale di questa formazione. E quindi andiamo un po' a riscoprirlo con molto piacere attraverso Vision and Voice e Discipline Reprise. Personalmente è sempre un'emozione risentirmi Robin Crystal, tenendo conto che sono quelle che io chiamo le basi del mestiere di chi suona e di chi ama l'industrial. Li ricordiamo questi Throbbing Crystal, nacquero nel 1976, fondarono ben presto l'Industrial Records, un vero e proprio manifesto di intenti, e quindi una intensissima attività di live fino allo scioglimento nel 1981. Una sterminata produzione di live e poi la ripresa negli anni 2000, fino poi a purtroppo la scomparsa di Peter Christopherson, per l'appunto, ricordo ancora una volta, 24 novembre del 2010. Genesis P. Orridge, Chris Carter, Cosey Fenny, tutti il resto della band. Genesis P. Orridge, purtroppo anche lui di questi tempi alle prese con un problema di salute, e fondatore anche degli Psychic TV. Invece Cosey Fenny Tutti e Chris Carter hanno il loro progetto omonimo. Torniamo in Italia, una protagonista al femminile della scena noise, trattasi di She Spreads Sorrow, Alice Kundalini. Questo è il suo secondo lavoro dal nome Mine, e anche lei, come sarà il buon Raffaele Pezzella con Sonologist, incide per la Cold Springs, questa etichetta inglese decisamente tra le migliori degli ultimi anni. E da questo suo secondo lavoro del 2017 ci ascoltiamo Last e On the Bank on the River.